come fare il tuo mucho sombreros, mucho modulación, mucho la cabeza, me fa mal la cabeza. Ma bella, è bravo, bravo, no, non devi riparare. Va bene. Ma come la faccio, no, sta di avvizzare, sta di avvizzare. Attento, compagnero, sono sempre italo, italo, italì, italo, spagnolo, se va susciando, italo, spagnolo. Mucho comprendero, sono mucho comprendero, un po' bello se la lingui, la lingui, la lingui, la lingui, non la lingui, la lingui, italì. Si ves con chimbridos, vamos hacia la playa, vamos. No, no, no va a ver, no va a burro, no va a ver. Rufti Alfa 3. Bueno, compañero, bueno, saludos a ti es Corrubá. Diego Rubá, 76-7351. Bueno, mucho, bueno, compañero, tú te de miedo. Bueno, sale de miedo, a las bananas, a las chiquitas. Ciao, mucho bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ah. Oh, no se dice, no se puede notar, no se puede, se puede ser, puesto en cuestión local, no se puede se. Va bene, ci stanno vicini. Ah, cosa mi serve la serie, se mi dia le preso la gatta. Lo sa che all'assisa, ma in poche parole chi si, chi ti ha mandato, ma chi vuoi, si, lui, oh, acci, piglio, oh, non ci sta ma nessuno, una volta che mi metto a modura, mannaggia le pecorelle, che ti posso dire io? Non lo so, quanto è una fine da voi, boh, io vado da lui, so che io sono, io sono il vicino, per una vita, poi, quando ho presentato una cavagliata una cosa non messa oppure un cacchino che mi trovano con il suo va Gianluca, fai da bravo Gianluca, posso dormire capito, fai da bravo e già lo sai che all'assiste fai da bravo, ce l'ho già portato se mi fai il cazzo e vabbè e va bene così Gianluca, caspita. Perché si scherza, eh? No. Ma prendiamo fischi per fiaschi, eh? Attenzione, eh? Ciao Gianluca, eh? Mi è scusciato dalla Hispania, ciao. È possibile. Oh, mi gozzano. Ecco, c'è no. No, c'è no, il viso. No, c'è no. Atiéndase del sol que escaldienta, sol de que escaldienta aquí en España. Aquí en España se ole mucho bueno. Mucho bueno, mucho caliente, mucho caliente. Ya va a escapar el mío. Oh, estoy más contento. No, está en Siago, está en Siago, Sio. Está en Siago, Sio, Radio 2. Comprendidos, compañero. Comprendidos, compañero. Radio 2. Está en Siago. Yo, Ítalo, Ítalo, siempre. Ítalo. O España. O España. 4 sede, 4 sede Italia. Di quella famiglia per vedere se riusciamo a trovarlo, a comprare quell'affare per quella motorina là. Fate bravi se potete, qua la stazione Falchetto. Qua stazione Falchetto, Sierra Sierra che vi manda un 7351 se andate sgusciando. Buonasera, ben sgusciados. Vamos hacia la playa, vamos, vamos, vamos, vamos. Oh, me sei incantato, disco, vamos. Buonasera, compañero, buon nominativo. Mucho bien, bueno, no tiene divos, verso Scietolo. Questo già si vede, non mi fa niente. Come mi scucci, Mucho bueno, compañero, mucho bueno. Santiago Cero, Radio 1. Mucho bueno, Radio, mucho, estilo, fuerte. Chi è? Non mi chiamate perché ti dico questo, non sono un falco, sono un fa. Sì, sto arrivando, sì, arriva lì, se non ti preoccupare. Mannaggia, tu ce l'ha come lui. Ma come si chiama sa? Tre bene, scopri, tre bene. Dove si? Dov'è la tua modulazione? Dov'è la tua? Aspetta, le stazioni di auguri da Fat Man, mannaggia. Tutti capiscono lo spagnolo, dunque parlano lo spagnolo e capiscono lo spagnolo. Vamos, hombreros, no, un attimo, 2000, guarda, sono veloce, sto prendendo le cose, e vai. Fate brave se potete. Ciao, a dopo. Ciao. Attento sogno, chi è mi cazzo lì che sento un po' picciolino, avanti. Date un po' di bianco, dai, fate ragazzi, educate un pochettino, dai. Fatelo per me, dai. Io non chiedo mucho. Non chiedo niente, fate un po' di insomma, non lo voglio ripetere, che sennò guarda, se l'ha potuto la balcone e niente, tutto lì, no. A di lui, fate entrare nel caccio che va sottino, non mettete le portate, anche perché rischiate di farvi male così, no? Arriva una